l'Italia! Il drappo nero! Agguanto la ruota! Mi allungo attraverso questo totem che riguarda voi tutti, brazzanti! Cincischiate! Ve la menate, non volete più zappare né vangare! Ma io vi guardo! Vi guardo e vi controllo, perché la vite e la Padania ha bisogno di tutti voi! Parlare, sono in qualche pigra stedi a fonda delle chiesa. La Madonna si muoveva, la pallavolo non è colpa, è stata solo una svista, un marchio di abbigliamento, un ore tanti. Ciascuno da passare in consegna come un peso sulla schiena.